Eccoci qui, buon pomeriggio e bentrovati in diretta su CRMP Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme con Geri e con Giuseppe. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Oggi abbiamo cambiato un po' l'orario. L'orario, sì, andiamo in onda dalle 17 alle 19. Sì, edizione straordinaria. Edizione straordinaria con Happy Cinema, avremo le nostre rubriche con i film in uscita, eccetera, eccetera. Però prima la bella musica sempre qui su CRM con una splendida giornata. Che bello, io ho fatto una bella passeggiata sul lungomare. Anch'io l'ho fatta. Mi sono rilassata alla grande, questo sole bello, caldo, era ora che arrivasse finalmente dopo tanti, tanti giorni di pioggia, insomma di freddo. Di pioggia, di freddo, e poi abbiamo tantissimi turisti già che popolano il lungomare. E ti pareva se Giuseppe non guardava questo? Di tante nazionalità. Sì, tu hai stretto amicizia con qualcuna? Con tre russe oggi. Russe? Sì. Ah, com'erano? Molto carine, molto carine, veramente, veramente. Bravo Giuseppe. Consiglio a tutti di venire qui a Cefalù. Ma quanto sei bravo. Intanto ricordiamo i numeri ai nostri amici per chi volesse contattarci per richiedere la propria canzone preferita, fare una dedico, anche perché no, come dico sempre io, per salutarci, solo per un semplice saluto, il 335-5637-251. Oppure 0921 92 32 92, chiamate direttamente qui a noi, vi risponderemo, o addirittura il nostro sito crmhappyradio.it, dove trovate la finestrella inviare messaggio, quindi fateci sapere quello che volete ascoltare in questa giornata stupenda. Certo, e poi andate sul nostro portale Facebook, andate a scrivere CRM Happy Radio e andate a cliccare mi piace. Mi piace, mi così piace. Così anche voi farete naturalmente parte della nostra grande famiglia di CRM Happy Radio. Assolutamente. In diretta su CRM Happy Radio, Semplicemente Insieme con Geraldina Turdo. Ma gli sguardi della gente, ci hai mai fatto caso tu? Proprio quello che non dice, che non dice ma che sente, e poi fa finta di niente. Ma una madre che non vede, così non ci soffre. Ed arriva a fine mese proprio come fossi tu. Sono tutti sguardi che non parlano, ma sono proprio come te, che ti senti un'altra foglia che va finché il vento voglia. Tutti sguardi che non guardano mai insieme. Oh, va, finché l'entoia tutti sguardi che non guardano mai se ne chiedono perché siamo come una moneta lanciata su questo pianeta. Siamo ancora qui con voi, siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme. Bentornati con noi. Sai Giuseppe, ho trovato una notizia, no? Sì. Tranquillo, non è, come dici tu, al solito delle mie. Sicura? Sicurissima, come no? Vediamo, vediamo. Sai cosa? Perché si parla di paura da palco. Oppure anche paura da microfono. Ho paura da microfono. Nel nostro caso, magari. Che colpisce, pensa un po', le star. Cioè, una li vede là sul palco a dire, guarda questi, sono tranquille, hai visto? Invece no. Ebbene sì, anche loro sono esseri umani con delle emozioni, per cui anche loro possono soffrire. Esatto, cioè, per esempio i VIP di Hollywood hanno qualità artistiche molto versatili. Basta pensare quindi a tutti gli attori che scalano le classifiche musicali e quelle che poi naturalmente esordiscono anche a teatro. Eppure nonostante un'esperienza consolidata nel mondo dello spettacolo, hanno questa paura, questa ansia da palcoscenico, come i nostri personaggi, insomma, di casa nostra, per esempio, no? Anche Fiorello, Patti Pravo e poi Adele, Barbara Streisand, Megan Fox, praticamente soffrono di stage fright, quindi cosiddetta ansia da palcoscenico, che si verifica prima o durante lo show. Ecco, sì, sicuramente. L'ultimo ad aver sofferto di questo disturbo è stato Jonathan Knight, il cantante americano dei New Kids on the Block, se tu ti ricordi, insomma, questo grandissimo gruppo degli anni 90, che il 4 aprile, colto da un attacco d'ansia, ha dovuto lasciare il palco durante un concerto. Ah, ci picchia. Addirittura. Quindi proprio un attacco di panico di quelli proprio furiosi. Sicuramente. Il timore di non soddisfare le aspettative del pubblico, di dimenticare le parole di una canzone, può colpire anche personaggi affermati dopo anni di successo, manifestandosi all'improvviso, provocando ansia e talvolta anche attacchi di panico. Mamma appunto mia. La cantante britannica Adele. Adele? Adele si chiama? Adele, sì. Adele. Io la voglio chiamare Adele in l'hai versione inglese. Adele. Vabbè. Ha rivelato che il pubblico la terrorizza e che non le è bastato per superare la sua fobia di aver venduto milioni di copie dei suoi album e aver calcato le scene musicali più ambite. Quindi hai capito, anche loro sono presi da questi attacchi di ansia, di paura, eppure non si direbbe a vederli poi là sul palco. Sul palco, sono degli animali da palco, però anche loro, prima di salirci... Sono umani anche loro. Ovviamente sì, ovviamente sì. Anche tu sei umana, Jerry. Certo. L'ansia da microfono. L'ansia da microfono. Tu hai ansia da microfono? L'avevo. Adesso la sto superando perché tu mi metti a mio agio e quindi... Ah, meno male. Sto benissimo con te, Meno male. E noi andiamo avanti, dai, continuiamo sempre con la bella musica. Something to say. CRM Notizie. Buon pomeriggio. Serve la serata perfetta alla Juventus per continuare a sognare in Champions League. I bianconeri devono ribaltare il 2-0 contro il Bayern nella bolgia dello Stadium nel ritorno dei quarti. Linea al nostro inviato. Con il numero 10, Alessandro Del Piero, anche Pinturicchio spinge la sua Juventus oltre il Bayern Monaco. Fatemi stare sveglio, twitta da Sidney, in bocca al lupo e rimontona quella parolina, anzi parolona, che trasformerà stasera lo Stracolmo Stadium vestito da mille una notti in un'arena per i gladiatori di Antonio Conte. Cercheremo di fare la partita da Juve sapendo di affrontare un Bayern molto forte. Ci dà ancora più stimoli per provare a fare l'impresa. Aspettando il fischio dello spagnolo Carbaio, intanto a Torino, invasa da circa 2000 bavaresi, i tifosi si godono un sole estivo prima di cantare per la vecchia signora scalpita Giorgio Chiellini. Il pubblico ci aiuterà a fare una grande partita. È fatta la Juve, Vucinic, Quagliarella e Bomber, Padoin e Pogba. Per gli squalificati Lichtsteiner e Vidal, tornano i Toto e Marchisio, Pirlo e Buffon, ancora forte e giovane per la pensione. Heynckes conferma gli eroi della Bundesliga, Robben, Ribéry, attenti a quei due. Da Torino Gianni Di Gaetano, linea allo studio. Ci credono i protagonisti, ci credono i tifosi. I supporter bianconeri diffondono ottimismo per le vie di Torino, dove ci sono anche sostenitori bavaresi. Sì, un 4-1, ci crediamo. Credici sempre. 4-1, l'ho giocato pure. Ci crediamo a questa rimontona. Siamo ottimisti. Andiamo! Forza Bayern! L'altro quarto è Barcellona-Paris Saint-Germain 2-2 all'andata. Messi il grande dubbio dopo l'infortunio di Parigi. Domani Lazio-Fenerbahce nel ritorno dei quarti di Europa League. Si parte dal 2-0 per i turchi. Si gioca all'Olimpico a porte chiuse. Intanto l'UEFA pensa a un ulteriore inasprimento delle sanzioni per estirpare il razzismo dagli stadi. Per giocatori o dirigenti squalifica fino a 10 giornate. Volley, infine, scattano oggi le semifinali Scudetto alle 20:30 Piacenza-Macerata, domani Cuneo-Trento. Si parte dall'1-0 per gli ospiti in virtù del bonus per il miglior piazzamento in regular season. E per ora è tutto, più tardi. CRM Happy Radio. Segui CRM su tutti i principali social network: Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus. Ascoltaci e guardaci sul tuo iPhone, iPad o su tutti gli smartphone e tablet Android. CRM Happy Radio, sul tuo telefonino e sul tuo PC. CRM si sente e si vede. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Oh, come va? Ha smesso quel bel vento. Considera che me è primavera da mezz'ora. Il cielo ha una porta sola. Hai smesso di far male ai tuoi fragili pensieri, hai cominciato a fare pace con te stessa tu, e vivi tutto sempre in ombra. Tu mi piaci, sono in grado di amarti come vuoi, come vuoi. Scriverti da qui che anche terra tua è come farti respirare quello che respiro, la nave bianca ad ogni ora. No, no. E non è per fare amarti. Lì che tempo fa, tu sarai già al mare. Prenditi il tuo tempo e non sentirti in colpa mai. La volontà decide ancora, ancora. Che bella canzone questa di Viaggio, non poteva mancare oggi. Che bella, romantica, la dedichiamo a tutti gli innamorati. Aspetta, perché su questa canzone io devo salutare Pierluigi da Bassano del Grappa, che la dedica alla sua Chiara, quindi alla sua dolce metà, a quanto saranno pare. Innamorati, bravi. Che bello, l'amour, l'amour. E poi ancora su questa canzone volevo salutare Gianna da Gagliano Castelferrato. Che, oh, che bello, da tutta Italia ci seguono. Bello, ce l'hanno richiesta dal nostro sito, che ricordiamo è il www.crmpiradio.it, quindi li salutiamo ancora una volta, Pierluigi e Gianna, grazie. Ciao, ciao. Un bacione a tutte e due. Allora Giuseppe, siamo arrivati al momento della nostra rubrica, del nostro Happy Cinema. Sì, siamo pronti qui per vedere quali sono i film più visti durante lo scorso weekend e poi le uscite. Avremo il collegamento con Caterina, però prima la bellissima sigla. La nostra sigla che ci mette tanta carica. Vai con la sigla. Andiamo. Siamo tornati qui con Happy Cinema, vediamo al quinto posto chi c'è dei film più visti durante lo scorso weekend, ed è un film di cui già abbiamo parlato, Il cacciatore di giganti, da due settimane in programmazione e ha guadagnato qualcosa più di 2 milioni di euro. E allora, al quarto posto invece troviamo un film visto dalla nostra Caterina, dalla nostra inviata. Ormai lei va sempre al cinema a vedere film. È un film abbastanza impegnativo e ascoltiamo il trailer. Vai. Signore e signori, ecco a voi Luke and the Horcrux. E lui chi è? Tuo figlio. Perché non me l'hai detto? Non ti sento da un anno. Te ne sei andato così. È mio figlio, dovrei stare con lui. Io non sono stato con mio padre, guarda il risultato. Come farai a occuparti di noi? Non riesco a pensare a un lavoro diverso da questo. Avresti tante opportunità. Io non capisco proprio perché lo fai. Perché sono un poliziotto. Hai un figlio. Se vuoi mantenerlo, devi farlo usando le tue forze. Allora tutti quelli che vogliono vivere mettano le mani in alto! 105, inseguiamo il sospettato! 104, ho la moto davanti a me! Digli che da parte mia, che sono comunque suo padre, posso dargli tante cose. Ne faccio due in un giorno. Tu svegliati! Non ti permetterò di rovinare tutto. C'è una via d'uscita, ma non ti piacerà. Sai una cosa? Se corri come un fulmine, ti schianti come un tuono. E allora al quarto posto dei film più visti, Come un tuono, del regista Derek Chanfrance, Un film abbastanza impegnativo, abbastanza drammatico. E è stata a vederlo per noi la nostra Caterina Terranova. Ciao Caterina, sei in linea? Buonasera a tutti, ciao Giuseppe e ciao Jerry. Ecco, ciao, hai Caterina. Detto bene buonasera, perché stiamo andando in onda un po' più tardi. Però devo dire che siamo abbastanza seguiti quest'oggi, per cui... Sì. Che bello, la nostra rubrica sul cinema. Esatto, esatto. Allora, Caterina, come un tuono. Allora, intanto la prima cosa, consiglio vivamente la visione dello spettacolo, insomma, del pomeriggio e non quello serale. Sì. Anche perché io ho visto il film alle 22.30 e giustamente dopo una giornata... Sì. Magari di lavoro si può essere particolarmente stanchi. Siccome il film dura 140 minuti, allora questo è il primo consiglio che do. Quindi due ore e qualcosina, insomma. Esatto, 140 minuti, per cui consiglio appunto la visione nel primo pomeriggio. Allora, io ho letto che il film... c'è sì? Un rientro, Caterina, non so se hai il computer o la radio accesa. No, non riesco a seguire in tutto e per tutto. Ah, ok. Dimmi di tutto. E allora, io ho letto sul film che, insomma, questo regista Derek Chanfranc ha, diciamo, dedicato anche la sua ultima pellicola al tema della famiglia, no? Sì, sì, parla, sembra un essere un tema che gli sta particolarmente a cuore. E l'ultimo film... Le problematiche film, familiari. Sì, l'ultimo film del 2010 si chiamava Blue Valentine, quindi mi sono informato anch'io. Però vogliamo sapere da te, Caterina... Bravo, Giuseppe. Grazie, grazie. Quali sono le tue impressioni? Vai. Allora, a me il film è piaciuto tanto, anche se dura due ore, e quindi, diciamo, può magari sembrare pesante... per me non lo è stato. Sì. Io l'ho seguito attentamente, quindi ci sono magari dei momenti un po' piatti, ma poi ci sono anche dei momenti molto intensi, altri di azione, e quindi il film risulta abbastanza scorrevole. Sì, lo abbiamo visto anche dal trailer. L'ho trovato interessante, bravissimi gli attori, sì. tra cui, ecco, Brian Gosling, sì. che tra l'altro appunto è apparso nella pellicola di cui parlavi prima, Blue Valentine. Sì. Che è l'attore che mi è piaciuto di più in questo film. E poi abbiamo Bradley Cooper, che, come direbbe Jerry, è quel bel ragazzone che abbiamo visto anche in un altro film, ossia nel Lato Positivo. Oh, che bello! Parere femminile. Però sì, c'è esatto, anche la esatto. bellissima Mendes. Sì, naturalmente per i maschietti c'è l'affascinante Mendes. Bravo, bella, Giuseppe, bella. Vedo che sei... sempre più preparato, pure ecco, tu ecco. Il ragazzo studia, nonostante esatto, tu vada esatto. a vedere film, io studio, insomma, per essere al tuo passo, Caterina. E allora, Giuseppe, diciamo che i protagonisti sono questi due uomini molto diversi, sì. Però a mio avviso sono entrambi due uomini perdenti, due uomini che si schiantano. Ricordiamoci quindi del titolo, Come un tuono. Sì. Perché una frase di cui ci ricorderemo tutti guardando il film, sì. è chi corre veloce come un fulmine rischia di schiantarsi come un tuono. E i protagonisti si schiantano entrambi. Sì. Il primo protagonista è uno stuntman motociclista. Sì. Capelli biondi, ossigenati, pieno di tatuaggi, però molto sexy. Jerry è sexissimo sto uomo. Bello, devo venire a vederlo, sì. Però poi scopre all'improvviso di essere diventato padre, e i soldi non gli bastano, sì. e quindi, pur essendo comunque un uomo buono, sì. purtroppo cede alla delinquenza, i primi colpi riescono alla grande, ma sì. poi ci rimette la pelle, perché viene ucciso dall'altro protagonista che dominerà soprattutto nella seconda parte del film, che è Avery Cross, ossia un poliziotto molto ambizioso. Sì. Quest'altro personaggio è anche lui perdente, perché anche se lui riuscirà a diventare procuratore generale, che era il suo sogno, quindi riesce a realizzarsi nel suo lavoro, però ha dovuto pagare un prezzo alto anche lui. Quindi intanto uccide praticamente sì, va bene, non vogliamo svelare più nulla, Caterina. Sì, il prezzo sì, alto a vedere il film. Per chi è interessato esatto. a questo film, lo va a vedere al cinema. Lasciamo e vedrà un po' di suspense, ecco, sì, ci sono varie tematiche, ecco, come dicevi tu, la famiglia e anche un film di denuncia sociale, questo è molto importante. Sì, sì, si è visto anche dal trailer, è un film abbastanza impegnativo, appunto, di denuncia. Si parla di corruzione e poi c'è anche una bella colonna sonora di Mike Patton. Wow, va bene, esatto. Allora grazie Caterina del tuo intervento. Consigliamo una buona visione. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ciao, buon proseguimento. Caterina. Ciao alla prossima. Grazie, Caterina. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Quindi Jerry, questa era Come un tuono, alla quarta posizione dei film più visti durante il weekend, da una settimana in programmazione ha guadagnato 832.000 euro. Ah però! Ok, andiamo a vedere il podio che diciamo ai vertici sono rimasti i vecchi film della scorsa settimana. Bensì, al terzo posto, Benvenuto Presidente, da tre settimane in programmazione, ha guadagnato in totale più di 7 milioni di euro ed è la bellissima commedia, diciamo, sì, divertentissima, sì, con Bisio. Va bene, quindi ne abbiamo parlato già largamente nelle scorse edizioni, però al secondo posto abbiamo un altro film nuovo in uscita da una settimana in programmazione. Mm-hmm. Però prima vogliamo fare uno stacco oppure no, andiamo, continuiamo, andiamo avanti? Benissimo, allora alla seconda posizione abbiamo un film italiano e di cui andiamo ad ascoltare il trailer perché c'è anche una bellissima colonna sonora che piace tanto ai giovani. Vai, andiamo. Ho scritto una lettera per Beatrice. Dici che ne pensi? Nella vita nuova Dante celebra l'amore per Beatrice. All'inizio vuole conoscerla. Cerca di avvicinarla. Solo che è timido, si vergogna. Oh, bello! Tu che cazzo sei? È la forza stessa del suo amore che lo paralizza. Lei non stava uscendo? No, torno. Questa è una classe, non è il cesso di casa sua che regge quando vuole. E se fossi la reincarnazione di Dante? E se ti fossi solo rincoglionito? Cara Beatrice, non so cosa si debba dire in questi casi. Se devo fare finta che stai bene. Sto cercando una ragazza. Allora sarà lei. Che non sto soffrendo per te. Cosa c'è che fa? Dai, parlami! Che tu non mi piaci. Io ogni volta che ti vedo mi viene un'emozione dentro, il cuore a mille. Che tu stia bene, non stia soffrendo, eccetera. È una fortuna averti come amica. Solamente per guardare. Della vita le bastano, che arrivano per tutti. Però tu le puoi affrontare. Te la forza ce l'hai. Ciao. Devo fare tante cose. Suonare la chitarra. Viaggiare. Ridere. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno. Quella è passione. L'amore è un'altra cosa. Cosa pretendi? Guarda che sono umana anch'io, cazzo. Immagini se con un salto si potesse. Il sangue sta tornando rosso. Hai fatto una cosa bellissima. Senza te non avrei fatto nulla. Mentre di fuori inizia un temporale. Quindi alla seconda posizione un film per giovani, per gli adolescenti e non solo, perché se legge le critiche non va a interessare solamente gli adolescenti, ma anche altra fascia di età. Allora abbiamo Bianca come il latte, Rossa come il sangue, un film regista di Giacomo Campiotti. Sì. I personaggi principali sono Filippo Scicchitano nei panni di Leo, Aurora Ruffino e Silvia, Gaia Weiss e Beatrice e Luca Argentero, il bellissimo Luca Argentero, è un professore supplente. Allora, andiamo a vedere la trama. Innanzitutto il film è tratto dall'omonimo romanzo divenuto bestseller di Alessandro Davenia, in cui si racconta di un ragazzo liceale, appunto Leo, che si innamora perdutamente di una compagna di scuola più grande di lui, che ha come caratteristica il colore bianchissimo della pelle e i capelli rosso tiziano, che si chiama appunto Beatrice. Non appena riuscirà, dopo varie traversie e titubanze, ad avvicinarla, scoprirà che la fanciulla è gravemente affetta da leucemia e da qui egli si adopererà al massimo per cercare di aiutarla, affrontando decisioni e vivendo l'intera situazione in maniera molto intensa e trasportata, tale da far crescere e maturare velocemente. Questa delicata pellicola, Jerry, perché è molto delicata, devo dire, molto emozionante, sì, dimmi tutto, risulta nel suo complesso però un po' troppo melò, è molto adatta ad un pubblico giovane ed ancora pieno di illusioni, in quanto fresca e spontanea come l'età a cui appartengono i protagonisti. Va bene, la tematica del dolore che si innesta risulta efficace al fine di una presa di coscienza per il pubblico giovanile, che così viene a scoprire che non tutto è roseo e scontato, nemmeno la salute in un'età in cui tutto dovrebbe esistere o essere tutto di diritto. Quindi cara Jerry vuole insegnare ai giovani che insomma anche la salute insomma non è un diritto e possono capitare anche situazioni di questo genere. Sì. Bravo come sempre Filippo Scicchitano nei panni del protagonista principale, del ragazzo liceale spensierato e un po' immaturo, ma anche tutti gli altri protagonisti principali sono molto bravi, devo dire. La colonna sonora, come abbiamo ascoltato, è dei mitici Modà, Se si potesse non morire, e durante il film si ascolta anche Come un pittore e Tappeto di fragole, per cui belle canzoni comunque, poi dei Modà. Sicuramente dire. Tu lo andrai a vedere questo film? Sì, io sto facendo proprio una lista di tutti i film che devo andare a vedere. E vai a vedere qualcuno, non fare solo la lista. No, devo andare a vederli, hai ragione. Quindi al secondo posto, Bianca come il latte, rossa come il sangue, da una settimana in programmazione ha guadagnato più di 1 milione di euro. Rimarrà in programmazione per un'altra settimana, in quanto appunto sta avendo tanto successo. Devo dire che il film è abbastanza intenso, Jerry, e quindi leggendo il libro insomma di D'Avenia risulta essere ancora più intenso, quindi insomma se vuoi proprio una dose di intensità, sì, vai a vedere sto film. Devo andare allora, mi sa che devo. Ok. E allora tra poco vedremo la prima posizione dei film più visti della settimana e le uscite di domani. Mm-hmm. Va bene? Ci vediamo subito dopo, ritorniamo in studio naturalmente. Esattamente. Ok. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è Semplicemente Insieme. No, non è niente, è soltanto un piccolissimo dolore che passerà. No, piccolissimo dolore. Ed eccoci ancora qui, siete ancora rigorosamente in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia naturalmente di Jerry e di Giuseppe, sino alle 19, perché sono abituata a dire 17. 19, Jerry. No? Oggi 19, quindi un po' di cambiamenti in questo ultimo periodo. Ecco, sì, finiamo con la seconda parte di Epicinema. Giusto. E allora, al primo posto dei film più visti dello scorso weekend abbiamo un film che abbiamo trovato da 3 settimane oramai ai primi posti, e sono i Croods. Che bellini. Ecco, sì, a te piacciono tantissimo. I Croods immersione 3D. Sono questi... come una bimba. Sì, esatto, ma è bello per bello per da vedere. Per tutta la famiglia, insomma, per grandi e per sì, piccini, insomma. Io li ho visti e sono veramente divertentissimi. Allora, in immersione 3D, i cavernicoli in trasferta della DreamWorks, che ha fatto un lavoro straordinario, infatti... Non per nulla è da 3 settimane al primo posto dei film più visti al cinema, ovviamente, ed ha guadagnato più di 9 milioni di euro solamente in Italia. Ah, però, cara Jerry, tu quando lo fai un film così guadagniamo qualcosina? Sì, adesso ci organizziamo e giriamo un film così di botto. E allora voglio dare le uscite anche di domani 11 aprile. E allora, abbiamo un film storico, di genere storico, 11 settembre 1683, che racconta, diciamo, la presa di Vienna, eccetera, dall'impero ottomano, e protagonisti sono Murray Abraham e Enrico Loverso. È una produzione italo-polacca. Poi abbiamo genere commedia, Ci vediamo domani, con protagonista Enrico Brignano, il simpaticissimo Enrico. E poi La città ideale, genere drammatico, con Luigi Lo Cascio, che è un attore molto bravo palermitano. È sicuramente anche questo molto interessante. Poi abbiamo sempre genere commedia, Il volto di un'altra, è una commedia un po' surreale, con Alessandro Preziosi e la bellissima Laura Chiatti. Veramente bello. Sì, direi. Solo che in questo film, a quanto pare, si fa operare al viso, cioè cambia volto. Ah, addirittura. Esatto, perché Alessandro Preziosi è un chirurgo plastico. È una commedia un po' surreale. Poi Taddeo l'esploratore in 2D e 3D, questo è un genere animazione e family. Mm-hmm. Quindi chissà se non lo troviamo magari ai primi posti la prossima settimana. E poi Midway tra la vita e la morte, genere thriller, con Elisabetta Pellini e Salvatore Lazzaro. E poi una grande uscita, perché ritorna sugli schermi uno che a te piace tanto tanto. Sì. Ritorna Tom Cruise. Sì, non è che ti piacicchia. Mi piacicchia. Ti piacicchia, sì, un po'. Bello metto anche lui. Ecco, e ritorna con un genere azione fantasy. È un eroe del futuro in Oblivion. Bene. Anche questo molto molto quindi bello da vedere. E poi un'ultima segnalazione, Tutto parla di te, genere drammatico, con Charlotte Rampling e Elena Radonicic. Anche questa è una produzione tra italiana e straniera, Tutto parla di te, un film, diciamo, indipendente d'autore, questo. Ok, quindi queste sono le uscite di domani ai cinema, e quindi finiamo così, andateli a vedere, e insomma finisce qua la nostra rubrica Epicinema. Naturalmente ritroverete mercoledì prossimo. Sì, ritroveremo mercoledì prossimo, e la troviamo anche in versione scritta, la voglio ricordare. Domani sul sito dei nostri amici dell'informazione, cefaluweb.com. Che salutiamo, tra l'altro. Che salutiamo, ciao. Ciao ragazzi, ciao. E buon lavoro. E buon lavoro. E allora, Jerry. Noi continuiamo allora con la musica, naturalmente. Con la bella musica. E direi di continuare ancora per qualche minutino, ancora ce l'abbiamo da dedicare alla musica, in naturalmente. In nostra compagnia. Prima di andare via. In un orario diverso, siamo sempre semplicemente insieme. Sì. To make you want me, I can fabricate the truth. I'll give you easy, it'll keep me destitute. You hang me up on the line, hang me out to dry, and you got nothing to lose.

couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? All'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Giuseppe. Sì, ci sono anch'io, la grande Pink Try, bella aspettata. Questa canzone, sì, mi piace, molto bella. Ci piace. E allora non ci resta adesso che salutare tutti i nostri amici che all'ascolto, che ci hanno seguito per queste due orette, spero siano stati bene in nostra compagnia. Ma sicuramente, poi anche noi siamo stati bene in quest'ora diversa. Sì, chissà, magari faremo qualche altra. Ecco, sì, terremo puntate. Informati i nostri ascoltatori quando andremo in onda, diciamo, nei prossimi giorni, perché magari ci ritorneremo a questo orario. Sì, un po' di cambiamenti. Sì. Però intanto io ricordo l'appuntamento Insieme a Me, Insieme a Jerry, venerdì comunque dalle 15 alle 17, quindi rimane invariato. Ecco. E allora vi auguriamo una buona serata, un buon proseguimento con la musica e i programmi di CRM Happy Radio. Buona serata, divertitevi durante il weekend, durante i prossimi giorni, tutto, perché con me, i nostri ascoltatori, ci vi ascolteremo, diciamo, lunedì prossimo. Giusto. E allora buon proseguimento.